c'è dentro te. Cosa c'è dentro te? Oh, se tu non lo sai, c'è un piccolo cuore di panna. C'è un cuore di panna per noi, nei momenti teneri. Cornetto Algida, cuore di panna. Se tu lo vuoi, un cuore di panna per noi. La prima volta che senti grande.